Cairo, la decisione della Repubblica Araba d'Egitto. Cari radioascoltatori, benvenuti. Sono le 20 ore locali, finalmente le 18 ore di Greenwich. Programma di lingua italiana di oltremare, destinazione dell'Europa centrale, trasmesso sulla frequenza di 9490 kHz, pari a 31 metri delle onde corte. Qui agli ascoltatori dallo studio 33 di Radio Cairo. Al microfono Antonello Bocchino, Amen Shemin e alla tecnica Mustafa Saoui. Cari ascoltatori, buonasera. Una conversazione che sarà l'occasione della giornata mondiale dell'ambiente, provenuta da una canzone. L'ambiente è un vicino notiziario fornito dal dossier economico di Eterà. L'ambiente è pronta e vino, quanto di vita e vita, non so. 35 ascolterete un brano di musica orientale. 40 è la prima pagina di Sistema del Mese. 50 è la scuola di auto. 50 è la scuola di auto. Dalla presentazione del programma da domani. Ci vedremo come sempre per una canzone. Il programma con delle ospita un considerevole numero di facoltà, tra cui quella di lingue all'alto, della quale si insegna lingue straniere, in particolare inglese, francese, italiano, spagnolo, persico, ebraico e urdo. Il 1950 è l'anno di fondazione dell'università, occupa il secondo posto tra le università di Sioni dopo quella di Cairo. Neppure l'università è stata chiamata Ibrahimba per l'università. Poi è la polizia dopo la rivoluzione di Ibrahimba nel 1952. E sicuramente è un santo. Oggi l'università possiede una biblioteca centrale contenente circa 100.000 testi e di attiva nelle stelle con altre università arabe e straniere. Inoltre ogni facoltà gode di una propria biblioteca. Questa università offre a propri studenti un servizio parallelo ai corsi tradizionali, la sezione e-learning. A partire dalla sezione e-learning del sito web dell'università è possibile accedere a materiali didattici, testi o esercizi collegati ad alcuni corsi delle diverse facoltà. Dall'Egitto alla famiglia. Di Cairo, oggi leggeremo una conversazione speciale per la giornata mondiale dell'ambiente a cura di Wahid Yaqub. L'ambiente è l'insieme delle condizioni fisiche, chimiche, biologiche e climatiche nelle quali si sviluppano tutti gli organismi viventi. Sono queste condizioni naturali che determinano le attività umane e che influenzano in gran parte il suo comportamento durante tutta la sua esistenza. Il 5 giugno il mondo intero celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, la quale è stata iniziata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Infatti questa data segna la tenuta nel 1969 della prima conferenza delle Nazioni Unite per l'Ambiente nella capitale svedese, Stoccolma. E anche il giorno in cui l'Assemblea Generale di questa organizzazione dell'ONU dette la sua approvazione alla fondazione del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Da allora si celebra il 5 giugno la Giornata Mondiale dell'Ambiente ogni dove nel mondo. Ogni anno l'ONU mette in avanti una proposta specifica riguardo l'ambiente. Divenne a questo scopo un tema principale e anche uno slogan sui quali si focalizzano le conferenze, i colloqui e le sessioni di lavoro, atelier, che hanno luogo a margine della celebrazione. Quest'anno è stato scelto come slogan, un motto, senza prima di mangiare e contribuisce a salvare la natura. Quest'anno il tema dell'evento è lo spreco alimentare, che ispira diverse iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica al problema della perdita di risorse alimentari e promuove l'adozione di comportamenti virtuosi e modelli di consumo utili a diminuire l'impronta alimentare di ciascuno di noi. A proposito del tema scelto per il 2013, la FAO ricorda che ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate e, contemporaneamente, nel resto del mondo una persona su sette soffre la fame. Di questo 20.000 bambini sotto i 5 anni muoiono per cause legate alla malnutrizione. Ma è anche un'emergenza ambientale, se pensiamo che la gran parte di questo cibo diventa immondizia e che sia lo spreco che la produzione di questo cibo equivalgono ad un enorme consumo di risorse naturali ed economiche. Occorre dunque dire stop a questo scempio e iniziare un cambiamento radicale a partire dai gesti quotidiani di semplici per giungere alla promozione di politiche alimentari in grado di promuovere un uso più accennato e razionale delle risorse alimentari. È arrivato il momento di agire. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato la conversazione speciale sulla Giornata Mondiale dell'Ambiente a cura di Wahid Yaqub. Thank you. 2015 con Cairo Radio Diffusione della Repubblica Araba d'Egitto. Va ora in onda il notiziario. L'Etiopia afferma che la diga Grande Rinascita non affiggerà l'afflusso delle acque del Nilo ai paesi dell'estuario. L'esercito siriano prende il controllo totale del Kuwait. Il vice premier turco incontra gli organizzatori delle manifestazioni. Nawaz Sharif è eletto primo ministro dal Parlamento pakistano. Ed ora le notizie in dettaglio. Il ministero dell'USA di Chiesa ha dichiarato che la diga Grande Rinascita non affiggerà il naso flusso delle acque del Nilo ai paesi del Mestuario, e c'è un fiocco indicato in un comunicato che la Addis Abeba è pronta a discutere con l'Egitto sulla questione del Cairo Lopez. Il comunicato ha precisato che la deviazione dal corso del Nilo Azzurro non diminuirà le quote delle acque dell'Egitto e del Sudan, e che questa tappa è essenzialmente tecnica per la costruzione della diga. Da parte sua, il portavoce della presidenza, l'ambasciatore Omar Aimer, ha smentito che l'Etiopia abbia presentato una protesta contro l'Egitto al Consiglio di sicurezza dell'ONU a causa di quanto dichiarato da alcune figure politiche durante la loro riunione con il presidente Morsi sulla diga etiopica. Il ministro dell'irrigazione italiano e il vice ministro dell'irrigazione kenyota sono giunti oggi al Cairo per una visita di alcuni giorni in Egitto. Nel corso del loro soggiorno i due responsabili avranno dei colloqui sui mezzi atti a rafforzare la cooperazione idrica africana e sulle ripercussioni della costruzione della diga etiopica grande rinascita. Due colpi di mortaio sarebbero esplosi in un'area aperta vicino al confine con la Siria, a sud del villaggio di Migdal Shams, sulle alture del Golan occupato da Israele. Lo dicono media secondo il quale l'esercito israeliano sta accertando se le esplosioni siano avvenute nella parte israeliana o siriana della linea di frontiera. Il sito IMS riporta anche che stamattina presto nella zona sono state avvertite due esplosioni. I rapporti bilaterali e gli sviluppi nella regione, in particolare la crisi in Siria, sono stati i principali temi affrontati oggi alla Farnesina dal ministro degli affari esteri Emma Bonino e dal vice ministro degli affari esteri di Israele Zev Elkin. Il ministro Bonino e il vice ministro Elkin hanno discusso dell'eccellente andamento del partenariato bilaterale anche nella prospettiva del prossimo vertice bilaterale intergovernativo che si terrà quest'anno in Italia. I ribelli siriani ammettono di essersi ritirati dalla città di Kufaira dopo il violento attacco dell'esercito di Damasco e dei combattenti e Hezbollah che hanno ucciso centinaia di persone. In precedenza la TV ufficiale siriana Al-Ahbariya aveva annunciato che l'esercito di Damasco ha ripreso il controllo totale della città al termine di un'offensiva di 3 settimane. Il capo militare dell'esercito siriano liberò Selim Idris ha negato che i ribelli siano perdendo la guerra nonostante le recenti conquiste. Combattenti Hezbollah stanno invadendo la Siria. Se continueranno a farlo e se le autorità libanesi non faranno niente per fermarli, ci sentiamo autorizzati a combattere la Hezbollah dentro il territorio del Libano, affermato Idris. Sono 270 le persone che hanno perso la vita in 17 giorni di scontri a Kuzair, città strategica siriana al confine con il Libano, tra ribelli e forze del regime di Bashar al-Assad. Lo rende noto il Comitato Siriano per i diritti umani, spiegando che oltre 2.400 persone sono rimaste ferite. Tra le vittime, 110 sono ribelli. Alcuni di loro sono deceduti per le ferite riportate e la mancanza di assistenza medica adeguata nell'ospedale da campo allestito a Kuzair. Gli attivisti denunciano inoltre come i pechini di Hezbollah abbiano impedito il trasferimento dei turisti fuori dalla città, il cui controllo è stato ripreso oggi dalle truppe di Assad. Gli Stati Uniti al momento non hanno la certezza che la Siria abbia usato missili usando armi chimiche. Lo afferma il segretario della difesa, Chuck Hagel, al termine della riunione ministeriale della NATO. Non ho prove dell'uso di armi chimiche, afferma. In merito sono solo quello che leggo sui giornali. Sono le 20:20 da Radio Cairo, state ascoltando il notiziario. La riunione preparatoria a 3 Nazioni Unite, Russia e Stati Uniti in vista di una nuova conferenza internazionale di pace sulla Siria è iniziata questa mattina a Ginevra. Nella città svizzera sono arrivati l'emissario speciale dell'ONU e della Lega Araba, Nahid Abrahimi, il vice ministro degli esteri Mikhail Bogdanov e il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici Wendy Sherman. Questa riunione punta a mettere in piedi una nuova conferenza ribattezzata Ginevra 2, che a differenza della prima edizione nel giugno 2012 includerebbe rappresentanti del governo e dell'opposizione siriana. Alcuni anziani armati hanno teso un'imboscata ad un convoglio di poliziotti a Teno lungo la frontiera saudita nei pressi della città di Al-Haib, uccidendo 14 agenti. Lo riferiscono funzionari locali, precisando che i corpi di due militari sono anche stati dati alle fiamme. Samantha Power sarà la prossima ambasciatrice USA alle Nazioni Unite. Lo ha deciso il presidente americano Barack Obama, secondo quanto riferiscono funzionari statunitensi, dopo la nomina di Susan Rice nel ruolo di consigliere per la sicurezza della Casa Bianca. La designazione della Power, giornalista ed ex donna dell'amministrazione Obama nel 2008, sarà annunciata oggi stesso. Ha ripreso regolarmente dopo una prova che è stato suggerito il traffico nella linea rossa della metro di Mosca, che era stato interrotto per un duplice incendio ad un cavo ad alta tensione nel tunnel tra due stazioni centrali. Lo ha riferito l'ufficio stampa della metropolitana. Il capo del Dipartimento della Sanità di Mosca ha aggiornato il bilancio dei feriti intossicati dall'ossido di carbonio. Una sessantina di persone ha fatto ricorso ai medici per i ricoverati, di cui tre in rianimazione. Nella città tedesca di Halle, nella Sassonia-Anhalt, circa 30.000 persone sono state invitate a lasciare le loro abitazioni per l'emergenza alluvione. Fa paura in queste ore il fiume Saale, che ha raggiunto il livello di 8,07 metri, toccando il record dell'ultimo 400 anni. La città sono ritenute a rischio 5 grandi quartieri, che gli stellati vengono distrutti di accoglienza provvisoria. La NASA avvierà in Afghanistan una missione di addestramento e formazione delle forze di sicurezza afghane dopo il 2014. Lo annuncia il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Andres Fogarasi, al termine della riunione ministeriale della NATO. Per la fine del 2014 spetterà la missione militare della NATO, che ha dovuto dato e sarà in una missione di non combattimento, precisa la NATO. La missione si chiamerà Result Support e si terrà in tutte le aree geografiche del paese oltre a Kabul. Nawaz Sharif è stato eletto primo ministro del Pakistan dall'Assemblea Nazionale, diventando il primo uomo nella storia del paese ad assumere la carica per la terza volta. Sharif, 33 anni, resterà giuramento nel pomeriggio davanti al presidente Ajit Ali Zardari. Portato al potere dalla ampia vittoria del suo partito, la Lega Araba Musulmana PLN, alle elezioni legislative del 11 marzo scorso, era già stato il primo ministro. Quando fu deposto da un colpo di stato militare del generale Pervez Musharraf. Grazie cari ascoltatori, avete appena ascoltato il notiziario. Ben ritrovati ad una nuova puntata del vostro programma, nel corso del quale faremo luce sulle attività economiche egiziane, nonché sulle relazioni di cooperazione economica tra l'Egitto e i paesi del mondo. Nella puntata di stasera, il primo ministro l'Egitto intende di realizzare un'autostrada con l'Etiopia via Khartoum. Il ministro della pianificazione sottolinea l'importanza di fondare nuove istituzioni finanziarie per il supporto dello sviluppo. Un workshop per la pubblicazione delle aziende di materiali medici all'esportazione in Europa. Immagine la cottura degli atti della 40ª edizione della conferenza dell'Organizzazione Africana di Assicurazioni, a cui hanno partecipato 52 paesi africani e 500 militari da tutte le parti del mondo. Thank you. Banca degli Investimenti Yaya Ahmed ha menzionato che il tasso di crescita nel settore delle assicurazioni ha registrato l'8% nel 2020, superando tutti i degli altri settori, il che sottolinea la sua importanza nello sviluppo economico. L'industria dell'assicurazione si concentrerà nella prossima fase sul supporto dei prestiti delle piccole e medie imprese e l'aumento delle opportunità degli investimenti, la disoccupazione ha prosciugato la Banca Internazionale che opera con l'organizzazione italiana di assicurazioni nell'organizzazione di corsi di formazione. Il ministro della comunicazione e della cooperazione internazionale Amar Dhamer ha sottolineato l'importanza di allargare il di formare altre problemi sopravvivere, quanto alla possibilità di restare pregiudizio al diritto degli esistiamo sulle acque del Nilo. Il fatto che la presenza di una donna, il tipo di maniera comica di un uomo, è una sola cosa. In tutti i fatti, i buoni sono le cause del diritto di capitale che rendono le loro strade i paesi migliorati di uno stesso fine. Per questi principi, sappiamo l'importanza di non cambiare le condizioni naturali dei paesi, vale a dire nessuno sta. Il tanto di Egitto, parole chiare, i due mari. La radio terra che abbiamo presentato. Matura Sottopano Terna G. Presentate qui voi l'antenato, bocchino. Enciclopedia Audio. Un programma per Enciclopedia. Chiunque abbia osservato l'arte del Egitto può facilmente verificarsi accanto a grandi opere d'arte e capolavori, anche molti conosciuti e studiati, ma anche estesi sulle personalità degli artisti che le hanno create. Tra le eccezioni, queste opere non possono essere attribuite a nessun maestro e restano anonime. Usata nell'antico Egitto. Se conoscono molti nomi di artisti, soprattutto pittori e scultori, attivi nei vari periodi della storia egiziana, ci sono gente numerosi oggetti a loro nome, a volte i nomi dei componenti della loro famiglia, ma tranne rarissimi casi essi non ci dicono mai quali siano le opere da loro prodotte, per cui non riusciamo a collegare i nomi degli autori con le singole opere. La musica ha svolto un ruolo molto significativo nella società egiziana, sia per le sue connessioni con il mondo religioso, sia per la sua presenza in aspetti importanti della vita profana, ma non la conosciamo poiché apparentemente gli egizi non hanno elaborato un modo per scrivere le note. Conosciamo bene invece gli strumenti musicali che ci sono giunti dagli scavi e i nomi moltissimi, uomini, specialmente di donne, di musicisti, strumentisti e cantanti. Vanno considerate come espressione del pensiero e della sensibilità non di un singolo, ma di una collettività, di una civiltà che si riconosce esse. Sono frutto di un lavoro collettivo, poiché di fatto, specialmente nel caso delle sculture, vi erano intervenute contemporaneamente molte mani di scultori. Vi sono scene dipinte all'interno di tombe che mostrano i lavori che venivano compiuti in atelier di artisti, in cui vediamo come numerosi scultori stiano lavorando attorno ad una statua, per cui nessuno di essi, anche se non sono i nomi, potrebbe definirsi l'autore. L'opera è di tutti e di nessuno. Una categoria a parte tra le associazioni è rappresentata dagli architetti, solitamente anche dai sacerdoti, rappresentanti della carica più alta dello Stato, ma con parole. Molti nomi di architetti dell'antico Egitto sono giunti fino a noi. Da questo si può ricordare il Hotep, geniale autore della piramide di Cheope. Siamo purtroppo giunti al termine della nostra puntata di Nazionale Concerti, vi auguro tutto il bene. Da Cairo vi abbiamo presentato Enciclopedia Audio, un programma curato e presentato da Amelie Mi. Alla tecnica Augusto Cassini. Thank you. e ridono più. Un programma a cura di Falco Mosme del Padiglio. Cari spettatori, questa sera parleremo del versetto 1096 della Sera di Maria, in fondo onnipotente dice: e allora, se ora ti credo che operano bene, considerai il suo superiore amore. Per quanto contenga il motivo per il quale questo versetto è stato rivelato, si dice che esso discende riguardo alla linea di Taleb, al barato di Ager, che sia come spazio di lui. Che il profeta, che Dio gli conceda la sua parte da sua benedizione, disse un giorno ad Agi: oh Agi, dici, oh Signore, riservatemi un posto presso di voi, concedetemi il vostro amore, impiantate un amore nel cuore dei vostri servitori. Fu allora che il versetto venne rivelato. Muhammad ibn al-Anisa disse a tale proposito: tutte le persone in quel tempo amavano Agi e tutti i membri della sua famiglia. Nessuno hanno indicato che il versetto di cui stiamo trattando stasera è stato rivelato all'intenzione degli esseri umani che erano immigrati in Abissinia con Ghassal ibn Abi Talib, un potente signore in cuore di Noguasti, un grande affetto per loro. Poi questo affetto è divenuto regola generale prescritta dalla favore dei suoi servitori che facevano delle opere buone. Catada risposte che ormai la fame e Dio sia soddisfatto di lui, diceva: ogni azione umana, sia essa buona o cattiva, sarà retribuita dall'Allah. Sarambi di Italiani disse: l'Onnipotente coglie nel cuore di tutti i commenti d'amore per cui per colui che si rivolge verso di lui con amore, perciò questo godrà del loro affetto e della loro misericordia. Ma anche questo versetto l'Onnipotente ci indica una parte delle grazie che egli annuncia ad alcuni dei suoi servitori, ossia il fatto di imporre il loro affetto nel cuore la grazia dei suoi servitori. Il profeta, che Dio gli conceda la sua pace e la sua benedizione, ha pronunciato numerose adesi a questo riguardo. Abu Oraya ha riportato che il profeta, che Dio gli ha tolto la sua pace e la sua benedizione, disse: quando Dio ama uno dei suoi servitori, chiama Gabriele e gli dice: Dio ama un tale, amalo dunque anche tu. Gabriele lo ama ed esclama agli abitanti del cielo: il Signore ama questa anima, amatelo dunque anche voi. Gli abitanti del cielo lo amano, poi viene imposto il suo affetto sulla terra. Quando Dio detesta un suo servitore, chiama Gabriele e dice: il nuovo corpo mentale detesta anche tu. Gabriele lo detesta e chiama gli abitanti del cielo: il Dio non ama cercare, cercatelo anche voi. Gli abitanti del cielo lo prendono in antipatia e quindi non imposta questa animosità nei suoi riguardi anche sulla terra. Si tratta qui di una buona novella annunciata ai veri credenti. Il servitore di Allah si appresta a soddisfare l'Onnipotente compiendo dei buoni atti. L'Onnipotente mi retribuisce con il farli avvicinare a sé ed imponendo l'affetto per loro nel resto delle sue creature, senza che essi debbano farlo sforzarsi. Inoltre, nell'esistenza dell'aldilà, egli riserva loro un posto ad effetto e rivelazione di Cristo e si stenderà la sua ombra su di loro. Il suo cuore sono puri, vuoti di qualsiasi sentimento di invidia o di odio. Per contro, gli increduli saranno gettati nel fuoco dove uno di loro rinnoverà i suoi compagni. Quando il credente è amato nell'esistente terreno, gli sarà ugualmente in quella dell'aldilà, poiché l'Onnipotente non ama altro che le persone pietose alle quali porta la propria soddisfazione. Che abbiamo presentato le sette rivelazioni a cura del dottor Hassan Ahmed Al-Kabir. Ho presentato per voi l'Antonello Bocchi. La Bucaero va ora in onda il riepilogo delle principali notizie. L'Etiopia afferma che la via grande rinascita attingerà la flusso delle acque del Nilo ai paesi dello Saurio. L'esercito siriano prende il controllo totale del Qusair. Il vice premier turco incontra gli organizzatori delle manifestazioni. Nawaz Sharif è eletto primo ministro dal Parlamento pakistano. terzo episodio, ora insieme di lasciarvi all'ascolto della canzone alla conclusiva, vi facciamo un breve riascolto dei programmi dell'indomani che saranno presentati da me, Annette Moon, e da Marco Allegri. Alle 20 ci sarà l'apertura, alle 20.03 Bello Egitto, alle 20.05 la metà della mela di Mercier, alle 20.15 il notiziario seguito da Spotlight, alle 20.30 Fronti Pirati Caere di Marco Allegri, alle 20.35 Panorama Artistico di Giorgio Barassi, alle 20.40 Prima Pagina di Pisanar del Medio, poi alle 20.45 un brano di musica orientale. Alle 20.50 al Marco Turistico di Alacer e infine alle 20.55 la lingua della principale orchestra, seguito dalla presentazione del programma dell'indomani e poi saluteremo con una canzone araba. Dalle 20.33 di Radio vi salutano alla tecnica Mustafa Sayed e dal microfono a Nicole e Antonello Bocchini. Amici di Radio Cairo, augurandoci che il nostro programma sia una stagione di pregredito, vi diamo appuntamento a domani e sempre alla 20 ore locale pari alle 18 ore. Thank you.